Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Vorrei fare quello che ho sempre sognato di fare, vorrei fare lo steward, l'hostess no, perché... E vorrei... Vabbè, questa risolita, questa risatina sulla hostess, io avrei... Vorrei chiedervi di fare la cosa che io mi dimentico sempre di fare appena salgo su un aereo. Vorrei chiedere di allacciarvi le cinture. Vorrei chiedere di, con la gentilezza che vi contraddistingue, perché lo fate sempre con grande gentilezza, ma vorrei chiedervi di allacciarvi le cinture, perché qui stiamo decollando davvero. Piaccia o non piaccia? Allacciate le cinture dunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori, anche perché parte Effetto Notte come tutte le sere a quest'ora, e Renzi, lo avete sentito, era tutto entusiasta perché ha battezzato oggi la nuova Alitalia Fiumicino e ha detto, avete sentito, il paese decolla, ci chiedono di rallentare ma si corre, piaccia o non piaccia. Certamente il paese decolla per certi versi, anche se anche ieri abbiamo parlato dei dati Istat, oggi Confindustria riconferma che la ripresa un po' c'è, bisogna però, dicevamo anche ieri, essere prudenti. Ma al di là di questo c'è una grande zavorra che però tira verso il basso l'Italia, quella della corruzione. Quante volte abbiamo sentito negli ultimi anni anche da istituzioni internazionali che hanno detto che è per la corruzione che tanti stranieri, tante aziende straniere non investono in Italia, e se ce n'era bisogno di una ulteriore conferma è questa seconda ondata di mafia capitale. Oggi parleremo in modo piuttosto esteso del secondo capitolo di mafia capitale. Vi ricordate, ne avevamo parlato a dicembre, aveva irrotto praticamente sulla scena a fine dell'anno scorso e adesso ritorna in grande stile. Ce ne occuperemo con i nuovi arresti, con questi intrecci immarcescibili che non finiscono mai tra politica, imprenditori, malavita, eccetera. Poi ci occuperemo anche di delle possibili nuovi problemi per i conti pubblici, perché c'è un nuovo allarme dall'Avvocatura dello Stato rispetto a una nuova possibile sentenza della Consulta. Dopo quella delle pensioni, ora si parla dei contratti della pubblica amministrazione. Capiremo se effettivamente c'è un pericolo per le tasche, per i conti pubblici dello Stato. Poi parleremo di vivisezione in Europa, poi anche di un portale innovativo del governo sulle tematiche gay. Ma direi innanzitutto, come sempre all'inizio, di avere un'idea generale della giornata. Mafia capitale, nuova ondata di arresti, nel mirino il business dei migranti, Marino sotto attacco delle opposizioni, ma il PD lo difende. Economia, Confindustria evidenzia che la ripresa accelera, intanto arriva l'allarme dell'Avvocatura dello Stato su contratti della pubblica amministrazione. Grecia, Atene rifiuta le proposte dei creditori perché aumenterebbero la povertà e la disoccupazione. All'Italia Renzi battezza la nuova compagnia, il paese decolla, dice ci chiedono di rallentare ma si corre, piaccia o non piaccia. L'incidente dell'auto pirata a Roma, è stato rimesso in libertà uno dei giovani rom arrestati. Lo studente morto in gita, trovato del DNA sotto le unghie e nello stomaco c'è più alcol che nel sangue, avrebbe bevuto poco prima di morire, escluso l'uso di droga. Delitto De Mauro, la Cassazione assolve definitivamente Riina, rigettato quindi il ricorso della procura, confermato il verdetto per il boss dei boss. E per il calcio verso Juventus-Barcellona, guaio muscolare intanto per Chiellini, salta la finale di Champions. E quindi partiamo dal secondo capitolo dell'inchiesta su mafia capitale. 44 nuovi arresti in tre diverse regioni, coinvolti politici di destra e di sinistra, accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, corruzione, turbativa d'asta, false fatturazioni, trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante della modalità mafiosa. Al centro dell'inchiesta, vi dicevo, il business dei migranti. Intanto sentiamo quali sono state in giornata le reazioni della politica. Una nuova tegola per il PD, quella della seconda ondata di arresti per mafia capitale. Lega e Movimento 5 Stelle chiedono le dimissioni del sindaco di Roma Ignazio Marino, ma lui non ha nessuna intenzione di farlo. Il premier Matteo Renzi promette che chi ruba andrà in galera, e nel pomeriggio il presidente del PD e commissario per Roma Matteo Orfini difende il sindaco, ma non fa sconti a chi ha commesso reati dentro il partito. Chi ha ceduto evidentemente dovrà pagare il suo debito con la giustizia fino in fondo, non è degno di stare nel Partito Democratico come in nessun'altra organizzazione seria di questo paese, ed è ovvio che chi ha rubato e chi si è fatto corrompere deve sparire dalla vita politica, e noi lavoreremo per questo. Ma il leader della Lega Matteo Orfini chiede cos'altro deve accadere affinché a Roma si torni al voto. Stessa linea nel Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Orfini e Marino facciano il favore ai cittadini italiani di dimettersi, perché noi siamo molto preoccupati per le nostre tasse. Mafia Capitale neanche esisterebbe se non avessimo avuto una classe politica come quella del PD corrotta fino all'orlo. E il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone parla di vicenda molto grave e dice va alzata l'asticella dei controlli sugli appalti. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ne parleremo tra poco, vi dicevo, col giornalista che ha stracciato il velo di questo malaffare, che ha anticipato questa inchiesta. Ne parleremo tra poco in modo approfondito, però chiedo anche a voi le vostre sensazioni su questo rigurgito ulteriore, nel senso che in realtà erano le indagini che andavano avanti, ma insomma sembra un pozzo senza fondo questo. Vi chiedo le vostre impressioni su questa vicenda che riguarda naturalmente tutta l'Italia in modo trasversale, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre i vostri messaggi o e le vostre opinioni attraverso gli sms al 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Siamo adesso sull'economia, con la ripresa che sembra accelerare. Nel primo trimestre 2015 il PIL è aumentato dello 0,3%, la produzione industriale è stimata in crescita sempre dello 0,3% ad aprile e secondo il centro studi Confindustria gli indicatori congiunturali delineano un'accelerazione della ripresa fin dal trimestre in corso. Sentiamo il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, intervistato da Valeria Grandi. Sicuramente il trend sta cambiando, però se non facciamo un po' di lavoro in casa, se non andiamo avanti con decisione sulle riforme istituzionali, politiche, amministrative, eccetera, non so se saremo capaci veramente di agganciare una ripresa che comunque dovrebbe venire avanti in Europa e anche fuori dall'Europa. C'è un po' più di fiducia, cioè si vede un po' più di fiducia da parte di... Sicuramente c'è un po' più di fiducia, questo sì, però aspettiamo a dire che siamo fuori. Le crescite da profisso telefonico 0, non sono sufficienti per dire che abbiamo finito. Di buono c'è che abbiamo smesso di scendere. Quindi prudenza. Intanto buone notizie arrivano anche dall'Italia. Avete sentito all'inizio, i sindacati hanno raggiunto l'accordo per l'assunzione di 310 dipendenti nel settore della manutenzione. Notizia che arriva nel giorno in cui l'Italia ha presentato la nuova Ivrea. Tricolore che si allarga tutta la Carlinga e poi la scritta all'Italia in grande, d'Etihad in piccolo. A pochi mesi dall'entrata del socio di Abu Dhabi, la nostra compagnia di bandiera cambia veste, rinnovati anche gli interni e i servizi offerti a bordo. Un cambiamento che riguarda ora gli aerei per il lungo raggio, ma che entro il 2017 si estenderà a tutta la flotta. Ma la presentazione della nuova livrea, la presenza del presidente del Consiglio Renzi e dei vertici di Alitalia ed Etihad porta con sé anche i primi risultati operativi, numeri in crescita, ritorno all'utile tra due anni, nuove destinazioni, ma soprattutto 310 nuove assunzioni. Alitalia torna in pista, dice ai dipendenti il premier Renzi. Vorrei chiedervi di allacciarvi le cinture, perché qui stiamo decollando davvero. Piaccia o non piaccia, ci sono le polemiche fuori tutti i giorni, ci dicono dovete fermarvi, rallentare. Noi stiamo rimettendo il paese a correre come deve correre, perché l'Italia ha bisogno di non fermarsi e di recuperare gli anni che ha perso. Un risultato, quello di Alitalia e Etihad, che sembrava impossibile solo un anno fa, dice il presidente Montezemolo. È importante guardare avanti, ma è anche importante sapere da dove si era partite. E questa è un'azienda che prima dell'accordo con Etihad era un'azienda tecnicamente praticamente fallita. Siamo in ottima forma e pronti alle sfide del mercato, commenta James Hogan, presidente di Etihad. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. E intanto arriva, vi dicevo, l'allarme dell'Avvocatura dello Stato sull'adeguamento dei contratti della pubblica amministrazione che sono bloccati dal 2010 e che costerebbe questo eventuale adeguamento, che potrebbe essere richiesto da un'altra sentenza della Corte Costituzionale, potrebbe costare 35 miliardi. Sarebbe quindi un'altra stangata sui conti pubblici, però cercheremo di capire qualcosa di più tardi, qui Effetto Notte. Siamo invece sulla crisi greca. Il primo ministro Tsipras ha lanciato in giornata un messaggio rassicurante ai creditori e ai mercati. Ha detto: entro domani Atene deve pagare, lo pagherà al Fondo Monetario Internazionale, 310 milioni di euro. In serata però è arrivato un altro messaggio, scusate la voce, sempre un po' di bronchite. La Grecia rifiuta le proposte dei creditori, lo comunica al Ministero delle Finanze spiegando che il programma chiesto a Tsipras negli incontri a Bruxelles non può risolvere la crisi e aumenterebbe la povertà e la disoccupazione. Poi in serata la cancelliera tedesca Merkel a TG1 ha detto: la Germania desidera che la Grecia faccia parte dell'euro, da parte nostra rispettiamo il principio di solidarietà, ma ci vuole uno sforzo da parte di Atene. Ed Atene agli Stati Uniti, il Fondo Monetario Internazionale rivede a ribasso le stime di crescita per l'America nel 2015-2016. Il PIL americano crescerà quest'anno del 2,5% e il prossimo del 3,0, meno quindi del 3,1 previsto in aprile per tutti e due gli anni. Ancora dall'estero, sale a 32 il bilancio delle vittime nei scontri delle ultime 24 ore a sud-est dell'Ucraina, tra governo centrale ucraino e ribelli filorussi. Ci eravamo un po' dimenticati di questa guerra. La violazione della tregua sancita a febbraio fa tremare i rapporti diplomatici tra Europa e Russia, sulla quale pendono già le sanzioni. È importante però, ha detto il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni, che vadano comunque avanti i rapporti economici. Sentiamo Gentiloni. Le sanzioni sono reversibili, quindi se nei prossimi mesi ci sarà il rispetto degli accordi presi a Minsk, si potrà discutere una de-escalation di queste sanzioni. Purtroppo le notizie in queste ultime ore non sono molto incoraggianti. Ma al di là delle sanzioni dobbiamo sapere che i rapporti economici con la Russia vanno avanti, possono andare avanti e perfino possono avere in questi mesi delle occasioni nuove rispetto al passato, oltre ad avere dei guai per le sanzioni. La Russia sta cercando di diversificare la propria economia per via del corso del prezzo del petrolio e in questa diversificazione le imprese italiane hanno uno spazio importante. E per la cronaca, tornando invece sulle notizie italiane, la novità nell'incidente dei pirati a Roma con la scarcerazione, la novità è la scarcerazione di uno dei due ragazzi coinvolti nell'incidente stradale mortale appunto di alcuni giorni fa nel quartiere Boccea di Roma. Sapete che ieri erano stati tra ieri e oggi interrogati i due di 18 anni e 19 anni, quello di 19 anni oggi è stato rilasciato. E poi novità anche sullo studente morto in gita a Milano. Secondo accertamenti medici sul corpo dello studente padovano morto dopo una caduta dal quinto piano di un hotel a Milano dove era in gita con la scuola, hanno evidenziato questi esami sotto le unghie dei residui di DNA da analizzare. Nello stomaco c'era presenza di alcol superiore a quello nel sangue, questo significa che avrebbe bevuto poco prima di morire ma non avrebbe comunque assunto droga. Sul delitto De Mauro la Cassazione assolve definitivamente Totò Riina, quindi i supremi giudici dicono di no ai PM palermitani contro la soluzione, perché hanno fatto ricorso contro la soluzione del capo mafia sull'omicidio del cronista dell'ora scomparso nel 1970 e mai più ritrovato. C'è la seconda enciclica del Papa, anche se è dedicata all'ambiente, è la prima scritta interamente di suo pugno dopo la Lumen Fidei. Il titolo secondo in descrizioni editoriali dovrebbe essere Laudato Si, ripreso dal Cantico di San Francesco. Al centro del testo ci sarebbe il tema della custodia del creato con chiari risvolti ecologici ed economici. Per chiudere il calcio, con gli sviluppi delle inchieste sulla corruzione della FIFA ci sarebbe un'altra gola profonda tra gli incriminati, pronta a collaborare con gli inquirenti. Ho ragione di temere per la mia vita. Chiedo scusa per non aver rivelato prima tutto quello che sapevo su certi fatti, ma adesso non avrò più segreti. Parla così in un'intervista televisiva Jack Warner, ex vicepresidente della FIFA, arrestato a Trinidad e poi rilasciato su cauzione. Un'intervista fiume in cui non si risparmiano colpi anche a Blatter. Lui sa perché è caduto e anche io, dice Warner, che poi aggiunge di avere documenti assegni che coinvolgono il numero uno della FIFA e altri dirigenti per le elezioni in particolare del 2010. Parole che arrivano come una lama di ghiaccio tra i massimi dirigenti della Federcalcio internazionale coinvolti o non ancora implicati nello scandalo su cui indagano la giustizia svizzera e quella statunitense. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per il calcio giocato, mentre il Milan ufficializza l'addio a Pippo Inzaghi ed è ormai agli ultimi dettagli per la firma di Milanovic, come nuovo allenatore appunto per il Milan, per la Juventus, che sabato sapete che a Berlino affronta il Barcellona nella finale di Champions League, arriva una brutta tegola contro i catalani. Non ci sarà infatti uno dei leader bianconeri, Chiellini, perché si è infortunato. Ora ci prendiamo una pausa per ragionare chi viaggia, anche vediamo se riesco a schiarirmi un po' la voce. Intanto vedevo i vostri messaggi al 349-238-6666. Milano è peggio di Roma, scrive qualcuno, ma difficilmente i suoi giudici faranno qualcosa. Poi dunque c'è Daniele da Calozzo Corte, vicino Lecco, che dice: caro Renzi, il paese decolla, il PD si scolla, con Alitalia lasciati la cintura che ti cadono i calzoni. Un po' di umorismo. mentre Clotilde dice che in realtà non è che rischiamo di precipitare. Cantone, che è il presidente dell'autorità anticorruzione, dice: doveva tenere tutto sotto controllo e poi difende De Luca. Sto perdendo la Trebisonda, non perdete la Trebisonda, non perdete soprattutto Effetto Notte. Ci prendiamo proprio questa pausa per aggiornare chi sta viaggiando e poi continuate con le vostre riflessioni su quello che le vostre sensazioni su questa nuova ondata che riguarda Mafia Capitale, sia su Effetto Notte sia attraverso gli sms al 349 238 6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Quindi ripartiamo con le notizie principali che vi ricordo tra poco, ogni tanto ve le riassumo se avete acceso la radio, diciamo colpevolmente in ritardo, anziché puntualmente alle 21, e poi andremo sulla notizia in primissimo piano di oggi. Mafia Capitale, nuova ondata di arresti nella politica romana, in cella anche Luca Gramazio, e il sindaco Marino dice: ho fermato il malaffare. Grecia, no alle proposte da parte della Grecia dei creditori, ma Atene fa sapere che pagherà il debito, lo dice al Fondo Monetario Internazionale. Merkel, la cancelliera tedesca, dichiara: serve uno sforzo di Atene. E poi Lagarde del Fondo Monetario Internazionale, con Draghi un'intesa forte. Renzi, lo abbiamo sentito, battezza la nuova Alitalia, il paese decolla, dice: ci chiedono di rallentare ma si corre, piaccia o non piaccia. E poi l'allarme dell'Avvocatura dello Stato su un'altra possibile sentenza della Consulta che riguarda l'adeguamento dei contratti della pubblica amministrazione, costerebbe 35 miliardi ai conti pubblici. Gli italiani morti sul bus negli Stati Uniti, anche un farmacista di 29 anni in viaggio di nozze, ferita la giovane moglie, l'altra vittima è un pensionato di 70 anni. E poi la novità sullo studente morto in gita a Milano, trovato del DNA sotto le sue unghie, che va al momento analizzato. Il delitto De Mauro, la Cassazione assolve definitivamente Riina dall'omicidio del giornalista dell'Ora, che era scomparso nel 1970 e non è stato mai più ritrovato. E poi per la finale di sabato tra Juventus e Barcellona di Champions League, Tegola sulla Juve, Chiellini salta la finale perché è infortunato. Adesso andiamo sulla seconda puntata di Mafia Capitale. Ritorna, come ritorna la mia bronchite, quest'anno ritorna anche Mafia Capitale. Vi ricordate l'inchiesta di cui avevamo parlato a dicembre della Procura di Roma, con esiti clamorosi, che ora esplode, era esplosa a dicembre scorso, ora riesplode. Un'inchiesta senza precedenti nella capitale, che era stata chiamata Mondo di Mezzo, Mafia Capitale, insomma si usano queste due espressioni, e che nella prima tranche aveva portato in carcere una quarantina di persone, un centinaio erano state indagate, compreso l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno per associazione mafiosa. Il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone aveva parlato dell'esistenza di Mafia Capitale tutta romana e originale, senza legami con altre organizzazioni meridionali, di cui però USA aveva detto il metodo mafioso e con cui si confronta alla pari. Una cupola romana che faceva capo a Massimo Carminati, ex terrorista nero dei NAR e con legami con la banda della Magliana. Sentiamo un passaggio di cosa disse allora in conferenza stampa Pignatone. La teoria del mondo di mezzo, compare. Ci stanno, sai come si dice, i vivi sopra e i morti sotto, e noi stiamo nel mezzo. Ci sta un mondo di mezzo in cui tutti si incontrano, e dici: com'è possibile che quello, com'è possibile che, ne so, che un domani io posso stare a cena con Berlusconi? È impossibile, capito come idea? È quella che il mondo di mezzo è invece quello dove tutto si incontra, hai capito? Tutti si incontrano là, di qualunque ceto, ma non per una questione di ceto, per una questione di mezzo, no. Allora nel mezzo anche la persona che sta nel sovramondo ha interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia delle cose che non le può fare nessuno. E tutto si mischia. E tutto si mischia. Emerse dunque che a Roma in questi ultimi anni ha agito un'associazione di stampo mafioso che ha fatto affari con imprenditori collusi, con dirigenti di municipalizzate, esponenti politici, insomma un intreccio pazzesco. E adesso ritorna quindi l'inchiesta con un blitz che c'è stato in diverse regioni, quindi nel Lazio ma anche Sicilia, Abruzzo ed Emilia Romagna. 44 nuovi arresti, in manette anche consiglieri comunali e regionali di centrodestra, di centrosinistra, accusati a vario titolo di associazioni tipo mafioso, corruzione, turbativa d'asta, vi dicevo con l'aggravante della modalità mafiosa. Al centro c'è nel centro di questa inchiesta il business dei migranti. Già allora è venuto fuori il nome di Buzzi, uomo del mondo delle cooperative, che gestisce le attività economiche dell'associazione nei settori della raccolta, smaltimento dei rifiuti, nell'accoglienza dei profughi. Sentiamo proprio Buzzi in questa nuova intercettazione, che cosa dice a un dipendente PD Figurelli del Comune di Roma con questa metafora della mucca. Oh, ma scusa, ma sai, la metafora, la mucca deve mangiare. No, questa metafora io glielo dico sempre al mio amico, mi dice non mi rompe il c***o, perché se questa è la metafora lui ha già fatto. Ma fai l'elenco della mangiatoia, figlio. Se voglio baciare, mi rompe il c***o, dice, è possibile che il Salvatore te l'ha? Noi ci risponde. Sì, ma io investo su te, sai che investo su te. Ma no, ti do il nome e cognome. Dammi il cellulare. E su questo coinvolgo Lirio Abate, che saluto con molto piacere. Ciao Lirio. Buonasera a tutti. Che è il giornalista dell'Espresso che ha sollevato il polverone, che ha anticipato anzi questa inchiesta, lo aveva fatto poco prima su Mafia Capitale. Tra l'altro ricordo che da 7 anni è sotto scorta per le sue inchieste, ha ricevuto da Napolitano l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine di Merito della Repubblica, che ha raccontato poi tutto in un libro scritto a 4 mani con Marco Lillo, che si intitola I re di Roma, destra e sinistra agli ordini di Mafia Capitale. Già nel tuo titolo lo dici, quindi è proprio trasversale. Oggi c'è stato il vertice straordinario del PD, accuse da varie parti, chiedono a Marino di dimettersi, dai 5 Stelle, a Lega, no? Dovrebbero fare prima tutti i partiti, diciamo, un esame di coscienza, vedere chi è che hanno candidato, chi hanno messo nei vari posti di pubblica amministrazione, sia al comune che in regione, perché qui l'indagine mette a fuoco appunto la destra e la sinistra, gli uomini del PPL, ex PPL, adesso Forza Italia, come Gramazio, e uomini del PT come appunto Mirko Corazzi, che magari insomma, agli italiani non dice nulla, ma ai romani sì, come pure mini sindaco di Ostia, Tassone, siamo arrestati con l'accusa dell'aggravante mafiosa. Ecco, questo è quello che avviene a Roma, dove i politici, proprio forse per una cultura, per una mancanza di cultura antimafiosa, legalitaria, si sono piegati ai voleri, alle richieste di un clan mafioso come dicevi tu, capeggiato da Massimo Carminati. Che tra l'altro, l'avevamo già detto a dicembre, Lirio andava tranquillamente in libertà da anni, no? E nonostante tanti precedenti che ha avuto, un personaggio nerissimo, pieno di ombre, eppure ha potuto poi agire così liberamente, no? E andava liberamente, sì, ma diciamo, come andava liberamente in giro, nonostante fosse sospettato, accusato, poi assolto, poi condonato, uscito dal carcere, eccetera, eccetera, nemmeno per i decenni precedenti investigatori o magistratura si è mai sognata di fare un'indagine così come è stata fatta negli ultimi 2 anni. Per cui la gente si sentiva veramente al di sopra di tutto, al di sopra di ogni cosa, si poteva permettere il lusso di andare in giro, andare a cercare Carminati per chiedere scorciatoie, favori, per smuovere politici, per smuovere pratiche burocratiche al comune, alla regione, e poi per mettere le mani sulle emergenze, emergenze immigrati, l'emergenza abitativa, l'emergenza rifiuti, cose che alle cooperative che aveva in mano Carminati, diciamocelo pure, Carminati è un ex fascista, ma che era socio occulto delle cooperative di Salvatore Buzzi, che è un ex comunista, per cui un comunista e un fascista insieme in affari, ecco, cioè, vi do già la logica della situazione, fanno affari sui poveri migranti, sulle povere persone che non hanno un'abitazione, e solo il giro d'affari per queste cooperative che il comune ha tra virgolette finanziato, cioè appaltato, di 150 milioni di euro, cioè una roba enorme che è finita 90% di queste somme nelle tasche di Massimo Carminati e dei suoi uomini, perché questi appalti dati in emergenza come vengono fatti? Non l'asta pubblica, non una cosa pubblica, ma vengono fatti con la trattativa privata, in emergenza, subito, affidamenti, e questo ti fa aumentare, lievitare i prezzi, perché poi Carminati con il suo carisma violento e criminale aveva un'influenza sui politici, a cominciare da Gianni Alemanno fino ad altri purtroppo dei consiglieri comunali passati e ancora oggi di questa legislatura, e nessuno si azzardava a dire di no, anzi tutti quanti si piegavano ai voleri di Carminati e davano questi appalti perché avevano paura. È la mafia, un metodo mafioso, così come Rina non si è mai sognato di andare a chiedere estorsione a un imprenditore, mandava i suoi, perché questi si piegavano perché sapevano della violenza intimidatoria di Rina. Per cui quello che si sta ripetendo a Roma purtroppo è una cosa che abbiamo visto negli anni Ottanta a Palermo, e io spero e credo che in base a quelle esperienze negative qui si possa fare meglio, anzi si possa migliorare e evitare gli errori del passato. Lirio, adesso vorrei far sentire proprio un pezzettino di quello che oggi ha detto il sindaco Marino, che è sotto attacco da parte delle opposizioni, sentiamo. Oggi è una giornata positiva perché in questa giornata perdono i corrotti, perde la corruzione e vince la Roma per bene, quella Roma che voleva un cambiamento quando mi ha eletto, quella Roma alla quale io ho voluto dare un forte cambiamento. Io sono il primo sindaco che appena insediato ha chiesto che venisse in questo palazzo gli ispettori della Guardia di Finanza. Lirio, allora abbiamo sentito adesso Marino, è stato attaccato da più parti, dalla Lega, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia ha detto che si deve dimettere, così anche Di Maio del Movimento 5 Stelle, ma alla fine Marino è lì da 2 anni, quindi c'entra, non si è accorto di nulla, è colluso? Ma guarda, io sto con le carte giudiziarie in mano, allo stato dell'arte, allo stato dei dati che ci sono su queste carte, se anche su quelle precedenti, Marino veniva visto come una persona inavvicinabile, una persona che non era una rotella dei loro ingranaggi, anzi diciamo questa rotella era ferma, per cui bloccava i propri ingranaggi, per cui doveva andare a cercare altro. Sta di fatto comunque che quando è arrivato Marino, sono arrivate queste inchieste giudiziarie, gli assessori della sua giunta che erano indagati, gli uomini del PD che erano indagati, eccetera, sono stati fatti dimettere, fino all'ultimo questo mini sindaco di Ostia che dipende da Marino è stato fatto dimettere pochi mesi fa, per cui di fatto lui un blocco a questa avanzata criminale lo ha ammesso, diciamo, nominando anche assessore Sabella, una persona stimatissima, un magistrato che non ha mai fatto politica ma che sta facendo grande pulizia all'interno del comune, sia a Ostia ma anche all'interno del comune, con nuove regole per gli appalti, per le aggiudicazioni dei lavori pubblici. E quindi di fatto c'è un cambiamento, non c'è una continuità, e dove si è accorto che c'era del malessere, del marcio, ha posto rimedio facendo allontanare le persone. Poi questo è il dato di fatto giudiziario, poi il lato politico non tocca a me, non spetta a me, tutti quanti possono dire, possono fare, posso soltanto illustrarti quello che è la responsabilità in qualche modo penale e morale di Marino, che si è accorto di quello che accadeva e ha posto un freno. Non è stato come Alemanno, quando l'Espresso, io ho fatto l'inchiesta per l'Espresso nel 2012, l'abbiamo pubblicata in copertina con le foto di Carminati, in cui dicevamo appunto che aveva interessi al comune. Alemanno non ha fatto tutto ciò, ha detto soltanto, adesso difendendosi in commissione antimafia, che ha visto quell'inchiesta dell'Espresso, ha chiesto ai suoi dello staff se qualcuno conosceva Carminati, tutti avevano detto di no, immaginatevi se qualcuno avesse detto di sì, allora lui ci ha creduto e è andato avanti. Ecco, non aveva fatto pulizia, così come quegli imprenditori che avevano letto l'Espresso, sapevano del ruolo criminale di Carminati, nonostante ciò sono andati a cercarlo per fare affari. La stessa cosa la politica, quei politici che dovevano fare campagna elettorale lo hanno cercato, ecco, quelli risultano, sono agli atti, e quelli dovrebbero essere messi alla porta. Molti sono stati messi alla porta, ma dovrebbe essere messa alla porta quella cultura che manca dell'antimafia, di un fatto legalitario. Purtroppo si deve conoscere, si deve apprendere, ma non tutti i romani lo vogliono fare, perché ancora credono che la mafia qui non esiste. Già. Grazie Lirio Abate. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata e buona continuazione. E avete sentito insomma l'incisività della testimonianza di Lirio Abate, che vi dicevo ha anticipato questa inchiesta già l'anno scorso. Avete sentito un po' di disturbo di fondo, ma sapete, vado a a prendere, a cacciare gli ospiti nelle situazioni più diverse, giustamente a quest'ora possono essere ristoranti come su un tram, come magari sotto le coperte a letto. Ci sentiamo, ci prendiamo un po' di ricreazione, voi continuate con i vostri commenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso il 349-238-6666. Per esempio Deri scrive: ciao Roberta, Salvini diceva che i delinquenti arrivano in Italia con i barconi, invece quelli preposti ad accoglierli cos'erano? Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Siamo ancora insieme, Roberto Giordano con voi come sempre sino alle 22. Prima di ricordarvi, se avete acceso la radio in questo momento, quali sono le notizie in primo piano oggi. Ne abbiamo appena parlato lungamente di Mafia Capitale. Volevo leggere anche le vostre sensazioni sia sugli sms al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Wally dice: sono incazzato anche perché mi chiedo quando e quanto pagheranno per i loro misfatti. Mario scrive: la doppia morale del PD è strutturale, De Luca come Berlusconi, Toscana ed Emilia lottizzata dalle cooperative, dipendenti pubblici in sovrannumero nelle regioni del sud, eccetera eccetera. Anche se Mario ha sentito il giornalista che si è occupato principalmente lui di questa inchiesta, Lirio Abate, poco fa, che diceva che in realtà poi il PD ha fatto fuori tutti quelli che erano invischiati in questa vicenda, e Marino dice politicamente il giudizio poi lo daranno, ma insomma da un punto di vista delle carte, delle indagini non c'entra nulla, anzi era risultato come inavvicinabile da parte dei malavitosi. Domenico: credo ormai sia necessario andare fino in fondo, scoperchiato il vaso dobbiamo svuotarlo e ripulirlo. Cristiano dice: attraversare il Mediterraneo, morire o salvarsi miracolosamente o chissà come per poi essere valutati un euro a persona, a proposito di questo business appunto dei migranti che è al centro dell'inchiesta. E poi Paolo: io italiano ho deciso di non fare più vacanze in Italia, non voglio arricchire un paese di mafiosi perché il nostro è stato e sarà sempre un paese di mafiosi. Anche se questo del turismo, Paolo, di fare le vacanze, insomma, però vedrai tu. E poi Ataru che scrive: la mucca italica ormai è magra, per la metafora che ha usato uno degli arrestati, dei maggiori indagati, che è Salvatore Buzzi, quello delle cooperative per i migranti, che ha detto appunto, usato questa metafora della mucca che deve essere munta. Quindi questo conferma che anche in Italia ci sono allevamenti intensivi, diciamo così. Ma torniamo sui titoli. Mafia Capitale, nuova ondata di arresti, nel mirino il business dei migranti, Marino sotto attacco delle opposizioni, ma il PD lo difende. Avete sentito qui Effetto Notte il giornalista che ha anticipato quella che poi è stata l'inchiesta della magistratura, Lirio Abate. Economia: Confindustria evidenzia che la ripresa accelera e intanto arriva l'allarme dell'Avvocatura di Stato, di cui parleremo tra poco. Grecia: Atene rifiuta la proposta dei creditori perché aumenterebbero la povertà e la disoccupazione. All'Italia Renzi battezza la nuova compagnia, il paese decolla, dice ci chiedono di rallentare ma si corre, piaccia o non piaccia. L'incidente dell'auto pirata a Roma: è stato rimesso in libertà uno dei due giovani rom arrestati. Lo studente morto in gita, trovato del DNA sotto le unghie e nello stomaco più alcol che nel sangue, avrebbe quindi bevuto poco prima di morire mentre escluso l'uso di droga. E poi il calcio: verso Juventus Barcellona, questo guaio muscolare per Chiellini che salterà la finale di Champions. È un dramma, Chico Padula, che Chiellini salti la finale Champions, secondo te? Guarda, non lo so, penso di sì. Tutti i vicini del Sole non sono molto interessati al calcio, e da una parte mi fa anche piacere, insomma, sono uomini un po' anticonformisti. Chico Padula, per l'appunto, vice direttore del Sole 24, con lui parliamo di cose. L'ha sprovvista. L'ho fatto apposta, perché sentivo questa sofferenza di fondo di tanti, sentire Chiellini non ci sarà domani, volevo capire se sei partecipe. Non sei partecipe. Invece, non sono molto. L'importante è che tu sia partecipe di questo allarme invece lanciato dall'Avvocatura dello Stato, che avverte che l'eventuale sblocco dei contratti della pubblica amministrazione bloccati dal 2010 potrebbe ammontare a 35 miliardi. Che cos'è? La sentenza della Consulta 2, la vendetta, cioè dopo la questione delle pensioni adesso potrebbe arrivare un'altra sentenza del genere? Ma no, insomma, io onestamente non so, penso di no. Diciamo che c'è stata molta polemica in occasione della sentenza, ricordiamolo, quella sulle pensioni, perché in quel caso l'Avvocatura dello Stato non aveva quantificato il costo per lo Stato di un'eventuale pronuncia di legittimità da parte della Corte Costituzionale, no? Quindi diciamo che questa cosa è stata molto criticata nei giorni successivi alla sentenza, perché si diceva: ma come è possibile, l'Avvocatura dello Stato, che ha diciamo, il compito istituzionale di difendere in giudizio le scelte del, fatte in quel caso dal governo, dallo Stato, diciamo, non è neppure riuscita a quantificare il danno, diciamo così, per i conti pubblici che una decisione della Consulta avrebbe determinato. Quindi in questo caso, questo è il caso del blocco della contrattazione pubblica, quindi come sappiamo dal 2010 i contratti pubblici sono bloccati, quindi non sono stati più, diciamo, riconosciuti aumenti economici, sono stati, diciamo, sospesi tutti i trattamenti accessori, sono state sospese le progressioni di carriera, non è stata corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale che viene data in quei periodi in cui, appunto, diciamo, non si riescono a fare, a rinnovare i contratti. Adesso il 23 giugno la Corte Costituzionale si riunisce e durante quell'udienza deve, diciamo, valutare la legittimità di questo blocco, e l'avvocatura ha presentato il conto dicendo: guardate che questa norma, dichiarare illegittima questa norma dal 2010 al 2015 costerebbe 35 miliardi. Devo dire che però su questo tema la Corte Costituzionale si è già pronunciata nel 2013 e di fatto con quella sentenza aveva in qualche modo precisato che è legittimo il blocco della contrattazione collettiva, che però deve essere limitato nel tempo. Quindi, diciamo, adesso è da 5 anni che il blocco è in vigore, quindi semmai, insomma, si pone il problema, e sarà interessante valutare come la Corte giudicherà questo periodo, che effettivamente è stato molto lungo, 5 anni, da 5 anni che i dipendenti della pubblica amministrazione non hanno di fatto adeguamenti contrattuali. Insomma, sappiamo, no, che in questi anni di crisi, insomma, i pensionati hanno contribuito purtroppo, insomma, con qualche modalità che conosciamo, il pubblico impiego ha contribuito con quest'altra modalità, insomma, la crisi ha riguardato tutti e tutti in qualche modo hanno pagato un prezzo a volte anche molto, molto elevato. Vedremo che cosa deciderà la Consulta. 35 miliardi sono tantissimi, è inutile dire che sarebbe veramente un enorme problema già da risolvere. Attendiamo Chicco Padula con fiducia. Bene. O comunque insomma, attendiamo in ogni caso. Ciao Chicco, grazie. E forza Juventus. Forza Juventus. Bene. Grazie, ciao, grazie Chicco. Poi domani anticiperemo l'atmosfera di attesa. Ora però è il momento invece di dare notizie a chi sta viaggiando, poi ritorniamo insieme e parleremo di vivisezioni in Europa e di altri temi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E rieccole in pochi secondi le principali, con naturalmente sempre in primissimo piano la seconda ondata di arresti per Mafia Capitale. In cella anche Luca Gramazio, ex PDL. Marino, dice il sindaco, io ho fermato il malaffare. Grecia no alle proposte dei creditori, dice Atene, ma pagherà comunque il debito al Fondo Monetario Internazionale. Renzi battezza la nuova all'Italia e dice che il paese decolla e ci chiedono di rallentare, ma noi andiamo avanti, piaccia o non piaccia. Poi abbiamo appena sentito l'allarme dell'Avvocatura dello Stato sull'eventuale adeguamento dei contratti della pubblica amministrazione. E poi lo studente morto in gita a Milano, è stato trovato del DNA sotto le sue unghie che adesso deve essere analizzato, e poi più alcol nello stomaco che nel sangue, quindi avrebbe bevuto poco prima di morire. E poi la tegola sulla Juventus, avete sentito, con Chiellini che salta alla finale di Champions perché è infortunato. Poi c'è un'altra notizia di poco fa, sempre che riguarda lo scandalo della FIFA, del governo mondiale del calcio, che dice anche i mondiali del Brasile 2014 sono nel mirino dell'FBI. Ora vorremmo capire quale mondiale a questo punto non è in qualche modo truccato. Europa 24. Parliamo adesso di sperimentazione animale in Europa. 1.173.000 cittadini europei hanno firmato una petizione per chiedere alla Commissione europea di abrogare la sperimentazione sugli animali a fini scientifici. Le firme sono arrivate da 26 stati membri, nessuno da Belgio e Croazia. Oltre la metà arrivano dall'Italia di queste firme. Sentiamo allora cosa ha risposto l'Europa. L'Europa non è ancora pronta ad abbandonare la sperimentazione sugli animali a fini scientifici, ma si sta lavorando in questa direzione. È in sintesi questo il succo della risposta della Commissione europea all'iniziativa popolare Stop Vivisezione, sottoscritta da oltre 1 milione di cittadini, più della metà in Italia. Nessuna abrogazione della direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, dunque, come richiesto dalla petizione, ma l'impegno a riesaminare la normativa a tempo dovuto. Insomma, non una risposta completamente negativa. Il portavoce della Commissione europea per le tematiche di salute e ambiente, Enrico Brivio. Non del tutto, nel senso che c'è un impegno della Commissione europea a considerare come ultimo obiettivo della legislazione europea la fine dei test sugli animali, ma in questa situazione non è ancora possibile perché in questo momento creerebbe troppi scompensi sia alla ricerca e sia all'industria. Quindi c'è questo impegno a avviare una consultazione con la comunità scientifica e tutte le parti interessate entro il 2016, presentare un progresso e andare verso un phasing out, quindi una graduale riduzione della vivisezione, riducendola proprio agli ultimi casi sempre più indispensabili, ma non si può neanche arrestare tutto d'un colpo degli studi scientifici che hanno bisogno ancora di poter operare sugli animali. Il modello animale andrebbe invece abbandonato subito, secondo le associazioni che da anni si battono contro la sperimentazione sugli animali, perché non avrebbe nessun valore scientifico. Sentiamo allora cosa ne pensa Michela Quan, biologa e responsabile del settore vivisezione della LAV, di questa risposta della Commissione europea. Certo che siamo delusi, nel senso che ovviamente noi ci chiamiamo Lega Antivivisezione e vorremmo una società, una ricerca libera dal modello animale. Ci sono comunque dei lati fortemente positivi, perché questo mostrano come i cittadini europei, in numero veramente altissimo, perché è stata la prima volta che è stata fatta questa raccolta firme in questo contesto e per chiedere questa cosa, quindi anche uno strumento legislativo nuovo, un grande successo che ha interessato 28 stati, quindi bisogna anche far capire che i cittadini europei sono chiaramente contrari alla vivisezione. Inoltre, nel testo della Commissione vengono sottolineati in varie parti dei concetti importanti, come la priorità assoluta dei metodi alternativi, l'impegno che tutti i ricercatori, i centri di ricerca, le università, le associazioni piccole o grandi devono fare nell'ottica di sostituire l'animale o perlomeno nel frattempo ridurlo il più possibile. E quindi la stessa comunità europea dà dei segnali molto importanti che devono essere ascoltati, e non dagli animalisti che professano questi concetti da moltissimo tempo, ma dagli stessi ricercatori che utilizzano gli animali, cioè le prime persone che devono di fatto concretamente impegnarsi per sostituire il modello animale con tecniche innovative e alternative sono i ricercatori stessi. E questo non lo dice la LAV, non lo dicono altre associazioni animaliste, ma lo dice la legge, lo dice la volontà politica europea. Quindi il documento, anche se rifiuta in un primo contesto quello che è l'accoglimento di una richiesta di abrogazione della direttiva europea, ha dei segnali molto importanti che vanno assolutamente ascoltati. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus. Ed adesso vorrei parlarvi di un'iniziativa del governo che è particolare, che insomma è un po' un segno dei tempi. È un portale web istituzionale, cioè un sito, il primo nel suo genere, per trovare tutte le informazioni corrette, la documentazione scientifica, banche dati, e anche per apprendere un linguaggio corretto quando si parla di temi molto complessi che riguardano, insomma, complessi per certi versi, in realtà speriamo che una volta prima o poi diventino più semplici, che riguardano le persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender. È un'iniziativa appunto voluta dal governo e ne vorrei parlare con l'onorevole Giovanna Martelli, che saluto. Buonasera. Buonasera. Che è deputata PD e consigliera del Presidente del Consiglio Renzi in materia di pari opportunità, quindi anche per quanto riguarda le persone LGBT. Quindi come mai questo sito, onorevole Martelli? Questo portale è un progetto che è all'interno della strategia nazionale appunto a favore di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, e va a coprire lo spazio che riguarda la comunicazione che è all'interno della strategia, che è a contrasto delle discriminazioni. Quindi questo portale ha lo scopo di documentare e informare con semplicità e con termini appropriati qual è la dimensione della quale noi stiamo parlando, che è la dimensione appunto identitaria di persone che hanno un orientamento sessuale differente e sul quale appunto spesso c'è un dibattito che assume rilievi ideologici e dogmatici, e attraverso la documentazione scientifica c'è la possibilità di approcciarsi a questo tema utilizzando la ragione, fuori dai dogmi. Onorevole Martelli, c'è dietro anche un comitato scientifico, no? Composto da varie persone e personalità dietro questo sito? C'è un comitato scientifico che ha proprio lo scopo e l'obiettivo di fare una valutazione di merito sui contenuti del portale, dove ci sono personalità che di tutto rispetto, ma non solo, che hanno proprio le caratteristiche per stare nel merito della questione. È facilmente accessibile? C'è proprio un sito che si può raggiungere immediatamente? Mi pare che però sia attivo dalla prossima settimana, onorevole Martelli. Sì, sarà facilmente accessibile. Abbiamo questi giorni di implementazione tecnica del portale, e sarà poi dalla prossima settimana sarà accessibile, e comunicheremo nel modo più esteso le modalità di accesso, insomma. Bisogna pensare, onorevole Martelli, che sia un primo passo, poi arriveranno le unioni civili, poi ci sarà anche qualcos'altro, in modo che non ci sia più bisogno proprio di un portale specifico. No, io credo che le discriminazioni siano un tema assolutamente emergente nella nostra società contemporanea, perché in questa fase contemporanea c'è un problema identitario generale, di carattere generale, dato da una serie di fattori. Quindi vediamo che le discriminazioni sono in aumento. Quindi credo che questo portale sia utile, e che sia utile anche ad accompagnare quel percorso, quel processo di riforme nel quale il governo e il Parlamento sono impegnati, tra questi il riconoscimento dei diritti civili. Posso chiederle se i tempi sono brevi per le unioni civili, perché Renzi ne aveva parlato pare pochi giorni fa, no? Ribadendo che entro l'estate dovrebbe la legge fare il suo percorso in Parlamento, perché questo renderebbe anche, diciamo, una lotta alla discriminazione ancora più concreta, no? Assolutamente, nel senso che io condivido che il passaggio più forte rispetto al contrasto alle discriminazioni sia il riconoscimento dei diritti. Questo è assolutamente, c'è l'impegno del Presidente del Consiglio. È chiaro che la realizzazione del percorso di legge è legato ai tempi parlamentari, però insomma c'è l'impegno per concludere in tempi adeguati questo processo di riforma che riguarda i diritti civili. Quindi da settimana prossima sarà accessibile, e sarà anche reso noto il sito, proprio l'indirizzo dove andare. Sì, infatti i tempi sono proprio legati a proprio tempi tecnici di identificazione nei quali faccio fatica a entrare per inadeguatezza mia tecnica, ma è legato a questo. Però mi prendo l'impegno di pubblicizzarlo, insomma, quando verrà fuori la settimana prossima. Certo, bene. Certo. Grazie onorevole Martelli. Grazie a lei. Grazie, buon lavoro. Anche a lei, arrivederci. Bene, adesso mi concentro nel tempo che ci rimane ancora sui vostri messaggi. Dice un ascoltatore: vale una cicca il parere di un giornalista di uno degli organi di stampa del PD renziano. Si riferisce a Lirio Abate, che in realtà vive con la scorta da 7 anni, ha avuto anche un'onorificenza del Presidente della Repubblica perché ha anticipato diverse inchieste rispetto alle inchieste dei magistrati, compresa anche questa di Mafia Capitale. Non mi sembra che abbia detto, anzi ha ricostruito il tutto. Poi dice un ascoltatore: non si fa opposizione politica a un governo in realtà molto popolare a colpi di sentenze giudiziarie. Questo lo leggo tra i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Poi Alberto da Lecce: se le inchieste romane sono cominciate proprio con Marino e lui risulta un inavvicinabile, ma perché dovrebbe dimettersi, anzi che continui la sua pulizia? Saluti Effetto Notte, saluti a te Alberto. E poi Per chiudere questa notizia, bastano pochi minuti per sapere se si morirà o meno nei prossimi 5 anni. Non è una sciocchezza, eh? Questo è l'obiettivo di un test online chiamato Hubble, che è stato realizzato da alcuni studiosi in Svezia e se ne parla nell'ultimo numero della rivista scientifica Lancet. Ci sono delle domande per capire la probabilità di sopravvivenza per le persone fra 40 e i 70 anni. Sembra che abbiano raccolto tutto un algoritmi delle cose scientifiche, non so quanto sia piacevole saperlo. In ogni caso magari dice che non morirai tra 5 anni, però metti che ti cada una tegola in testa, non so l'utilità. A tra poco.